Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Nel settore dell'illuminazione ormai le nuove tecnologie come i LED consentono risparmi di almeno il 50%, risparmi arrivano anche all'80-90% e tempi di ritorno, di recupero dell'investimento, quindi dei costi sostenuti per ammodernare l'impianto di illuminazione che possono scendere anche sotto l'anno. Sono numeri questi comuni a tutto il settore dell'illuminazione, da quella domestica a quella stradale, ciò nonostante queste tecnologie sono ancora poco diffuse. Allora, stasera vogliamo parlarvi di un progetto che mira a portare efficienza energetica nell'illuminazione dei negozi. Si tratta del progetto Ecovetrine, che nasce a Brescia dalla collaborazione tra Comune di Brescia, Università Cattolica e una società di consulenza che fa un po' da mecenate, in questo caso Mr. Jones. Ne parliamo con Nunzio Pisano, che è il responsabile dell'area servizi al cittadino, innovazione e associazionismo del Comune di Brescia ed è anche responsabile di questo progetto Ecovetrine. Buonasera Pisano. Buonasera Mr. Kilowatt. Vabbè, queste reminiscenze dal passato. Reminiscenza, sì, Maurizio. Dunque, ci spieghi subito in che cosa consiste l'attività che farete? Ci sono dei negozi che saranno coinvolti, che cosa accadrà? Allora, diciamo che una stagista che è stata selezionata dall'Università Cattolica andrà a fare un'intervista nei negozi selezionati e nell'intervista, attraverso questa intervista, acquisirà i dati relativi ai consumi energetici dell'attività commerciale e in particolare andrà a rilevare quello che è la quota relativa all'illuminazione. Fatta questa analisi, acquisirà i dati e restituirà, a seguito dell'effettuazione dello studio, una proposta per introdurre, dove necessario, delle migliorie sui fattori luminotecnici, quindi proprio sul sistema di illuminazione, in modo tale da andare a ottimizzare i consumi e andare a determinare un forte risparmio in quella che è la spesa dell'energia elettrica. Questo anche per andare a valutare poi i tempi e la convenienza dell'introduzione di queste tecnologie. Insomma, questo progetto sostanzialmente offre una diagnosi energetica gratuita ai negozi che aderiscono per quanto riguarda il sistema di illuminazione. Gli dice: guarda, tu spendi tot e potresti risparmiare tot se utilizzi le tecnologie più avanzate. È corretto, dal punto di vista del commerciante accade questo. Poi questi dati che voi raccogliete li utilizzate anche per tutta una serie di altre applicazioni. Esattamente, per cui questi dati poi vengono elaborati con la supervisione, con il coordinamento dell'università e si fa proprio, viene effettuato uno studio sui benefici ambientali, quindi a 360 gradi, che possono derivare dall'introduzione di queste nuove tecnologie. Quindi benefici innanzitutto misurati in termini di CO2, perché questa iniziativa la utilizziamo come promozione della cultura dell'efficienza energetica nell'ambito del patto dei sindaci, certo, cioè di quelle azioni che l'amministrazione mette in atto per ottemperare e migliorare le performance ambientali ed energetiche del territorio. Tra l'altro in Italia sono varie migliaia i comuni che hanno aderito al patto dei sindaci, quindi esatto, questa è un'iniziativa che sta pienamente dentro al patto dei sindaci. Sindaci, certo. Tra l'altro voi secondo avete luogo anche sì, benefici derivanti dalla produzione di rifiuti, perché sappiamo che ad esempio la tecnologia LED dalla non produzione ha una vita molto più lunga e non necessita di una filiera dedicata per lo smaltimento, come invece tutte le altre fonti, sì. Quindi c'è un'utilità diciamo immediata per i commercianti, una utilità per l'amministrazione pubblica, che in questo modo è in grado di raccogliere dei dati. Tra l'altro voi state scegliendo i negozi cercando di fare un campionamento rappresentativo della realtà, appunto, dei negozi del centro storico, ma poi c'è un altro vantaggio indiretto ma molto importante, che è quello di promuovere, tra virgolette, queste tecnologie anche presso la cittadinanza più in generale. No? Esattamente, infatti l'iniziativa, hai detto correttamente, si presta e ha la finalità molto importante di far sì che le vetrine diventino a loro volta la vetrina per divulgare questa cultura dell'efficienza energetica e questi prodotti, per cui Certo. Ovviamente il cliente che entra in un negozio si accorge di questa diversa forma di illuminazione ed è un modo per promuovere la cultura dell'efficienza energetica. Sì, infatti l'aspetto comune della comunicazione è uno degli aspetti principali di questa iniziativa. Che cosa ci mettono dunque, Pisano, i vari attori di questa squadra che abbiamo detto essere formata dal Comune di Brescia, l'Università Cattolica e questa società che si chiama Mr. Jones? Allora, l'Università Cattolica ovviamente mette il coordinamento scientifico sull'intero progetto e segue la stagista Mr. Jones e lo sponsor che ha finanziato lo stagio alla ragazza che è stata individuata. Senta, qual è stata la risposta del territorio? Noi abbiamo coinvolto anche le associazioni di categoria dei commercianti e devo dire che è difficoltoso riuscire a coinvolgere un numero significativo di persone, tant'è che in questi giorni stiamo contattando personalmente, il Comune di Brescia sta contattando i negozi per completare il numero campione, esatto. Quindi proprio in questi giorni stiamo cercando di individuare gli ultimi esercizi commerciali che servono per far partire l'iniziativa. E saranno una ventina. Vi aspettavate una risposta più entusiasta? A dire il vero eravamo preparati, tant'è che siamo partiti per step ad agosto, abbiamo cercato questo primo contatto attraverso l'associazione di categoria, abbiamo raccolto le prime disponibilità. Devo dire che poi noi siamo anche un po' esigenti perché vorremmo dare allo studio un valore aggiunto rappresentato dalle diverse tipologie di esercizi commerciali. Insomma, non vanno bene tutti. Micro, quelli un po' più grandi, quelli grandi ancora e quelli dove l'aspetto dell'illuminazione sia importante. Grazie Nunzio Pisano. Grazie, alla prossima. Anche per stasera abbiamo concluso, appuntamento a domani.